non stiamo parlando di videogiochi, ma stiamo parlando di giochi che hanno a che vedere con le scommesse, quindi con una scommessa in denaro. Quando parliamo di questo ci riferiamo principalmente a scommesse sportive e non, quindi uno, voglio dire, può scommettere anche su chi sarebbe stato il prossimo primo ministro italiano, chi avrebbe vinto le elezioni. Giochi a totalizzatore, quindi parliamo di Totocalcio, Totogol e della Corsa Tris, quella dei cavalli. Parliamo di Gratta e Vinci online, perché forse non tutti sanno che si può giocare al Gratta e Vinci online. E parliamo di fenomeni importanti come quelli che vengono definiti skill games, come il backgammon, gli scacchi, il Tetris, il Sudoku e, importantissimi, i giochi di carte. All'interno di questi giochi di carte, importantissimo all'ennesima potenza, il poker. Che ancora non è possibile fare in Italia, ma che lo sarà tra poco. Sì, diciamo che entro l'estate si incomincerà a giocare a poker e nella modalità, molto precisi in questo, quelli di AMS, che è l'autorità dei monopoli di Stato che si occupa di regolamentare il mercato, solo in modalità torneo. Quindi una modalità che consente sostanzialmente al giocatore di arrivare fino ad un massimo di puntata, che sono 100 euro. Quindi una modalità che non fa, tra virgolette, male, quindi che non porta a fenomeni come quelli che purtroppo si sono visti con il video poker, che è tutta un'altra cosa. Senti, il mercato sta diventando così importante e interessante, lo è già da un po' di tempo, soprattutto in altri mercati, oltre che l'Italia, tant'è che ad esempio negli Stati Uniti questo mercato stava cominciando a far concorrenza al grande business dei casinò fisici, quelli veri, che è vietato oggi giocare online negli Stati Uniti, cosa che sembra paradossale. Eh sì, probabilmente questo mercato stava facendo paura a quelli che sui casinò fisici hanno costruito delle grandi fortune, e quindi è in corso in questo momento un braccio di ferro per il mantenimento o meno dei siti online. Senti, in Italia o comunque in generale in Europa le cose sono un po' diverse. In Italia alcune cose si possono fare, altre non si possono fare. Tu ci hai descritto alcune cose che online già oggi si possono fare. È per alcuni un'abitudine scommettere magari pochi euro sul risultato di una partita di calcio. Che cosa invece non si può fare? Beh, per ora non si può fare il poker nella modalità... Beh, in questo momento non si può giocare, si potrà tra poco giocare a poker in modalità torneo. Non si può giocare a poker in modalità cash, quindi puntando indeterminatamente cifre, e soprattutto non si possono fare i giochi tipo casinò, quindi la roulette, il blackjack. Giochi d'azzardo. Giochi d'azzardo. Quelli in Italia non sono e ancora per un bel po' di tempo non sarà possibile giocare. Senti, voi avete fatto un'analisi del mercato per cercare di capire cosa sta succedendo. Sì. Innanzitutto partiamo, giusto per dare un'indicazione, dai numeri. Stiamo parlando di grandi numeri, quindi tanti giocatori, o ancora una nicchia di appassionati che giocano online? No, stiamo parlando di un mercato, direi, importante. Proprio tutti gli operatori stanno guardando questo mercato come il mercato del futuro, però è un mercato del presente, nel senso che stiamo parlando, e non è poco, del 5% della popolazione, sulla base di quella che è la nostra indagine, che ha dichiarato di aver giocato online negli ultimi 3 mesi. Quindi, popolazione italiana. In internet o popolazione? No, popolazione. Ah, in generale. Popolazione generale, sì, quindi un numero non da poco. Stiamo parlando quindi di circa una milionata, un milione di individui attivi negli ultimi 3 mesi su giochi e scommesse online. Quindi un mercato che, come dire, incomincia già ad avere delle dimensioni che non possono non essere prese in considerazione dai grandi operatori, italiani e non.